Non mollo mai, non posso farlo, non è nel mio stile. E sono stanco ma combatto, voglio solo vincere. Non dormo mai per dei guai da cui non posso uscire. Cosa ne sai dei Mayday, ma detti in aprile. Yeah yeah, mi chiedo se in verità c'è nessuno. La speranza è ridotta a sagoma nel fumo che c'è. La stanza al buio, io sveglio che me la godo. Domani lavoro sodo, come oggi chiuso in studio. E non mi devo limitare per potermi elevare. Non lo puoi spoilerare, non c'è nessun finale. Devo solo ringraziare che ne possa parlare. Con qualcuno nel mio caso, questo è un pubblico intero. Sto imparando a stare bene anche con il cielo nero. Per questo se una persona che mi ascolta si riconosce allo specchio, è la cosa più preziosa che tengo dentro. Tengo i denti stretti, aspetto il vento. E da una notte intera guardo il moonlight. Non mollo la presa, vado più in là. Da una notte intera guardo il moonlight. Spero che mi aiuti a scegliere la cosa giusta. No, non mollo mai. No, non mollo mai. Se non ti alzi quando cadi, mai nessuno qui ti aiuterà. No, non mollo mai. No, dimmi che non ho l'età per aver sofferto. Dimmi che troverai la pace quando io avrò perso. Ma 15 anni ho perso tutti, a 17 un figlio. Non puoi far perdere la voce a chi non ha mai vinto. Dimmi che non ce la faccio, che sono solo. Dimmi che non ho il coraggio, dimmi che non sono un uomo. Sputami addosso il tuo odio, voglio sentire che tremi. Mentre ti accorgi che più attacchi più mi alzerò in piedi. Guardami ancora mentre mi alzo sulle braccia. Mentre mi guardi il sangue che mi scorre sulla faccia. Tanto una ferita passerà da sé. Tanto la mia vita cambierà con me. Guarda qui sotto c'è un gruppo di persone che sembrano gli hooligans. Che come me non gliene frega di chi giudica. Se dagli errori che si impara, imparerò a lottare fino a che non è suonata la campana. No, non mollo mai. No, non mollo mai. Se non ti alzi quando cadi, mai nessuno qui ti aiuterà. No, non mollo mai. Se hai bisogno d'aiuto non farlo. Solo tu sai come finirà. Se non ti alzi quando cadi, mai nessuno qui ti aiuterà. No, non mollo mai. No, non mollo mai. Se hai bisogno d'aiuto non farlo. Solo tu sai come finirà. Prova a dirmi ancora che mi dovrei arrendere. Non fa per me, non fa per me. Forza dimmi ancora che non posso scegliere. Ma guardo su e grido che...